Disco Della Settimana. Sei bella come Santa Maria, quando arriva ottobre ed i turisti vanno via. Sei stronza come Santa Maria, quando non trovo parcheggio e ce ne andiamo via. Via da questo litorale che profuma di frittura, che quando arrivi alle conchiglie a volte sa di spazzatura. E ci perdiamo tra le onde, tra le promesse della gente, guardando sull'orizzonte pescare ricci illegalmente. Sei bella come Santa Maria, quando corriamo in pieno inverno e non c'è mai la polizia. Sei dolce come Santa Maria, quando ai piedi della croce sognavamo di andar via. Via da questo litorale che arriva fino a Finisterre, lì dove finisce il mondo, così credeva il mio bisnonno. E ci perdiamo tra le onde e tra gli sguardi della gente, tra gli schiamazzi dei turisti stregati dalle tarantelle. E poi mi sento meno solo quando ti guardo da lontano, capisco che nel caos moderno c'è un filo rosso in quest'inferno che ci stringe di nascosto e che ci lega a questo lembo di deserto sopra il tacco, sversato dal solito vento. Senti che vento, sei bella come Santa Maria, quando arriva ottobre ed i turisti vanno via. Hola, hola, è il disco della settimana, eh? Mauro, cosa sta succedendo? È un disco con un'atmosfera un poco sudamericana. Suramericana. Sì. Suramericana. Ma chissà, vabbè, comunque, questo è il nostro primo disco della settimana del 2021. E giustamente, visto che ancora non ci si può muovere più di tanto, non abbiamo la possibilità di viaggiare molto, abbiamo pensato di, in un qualche modo, farvi spostare con la musica. Andiamo in Sud America con la radio. Sì, mi sembri un po' i topolini. C'era un topolino di un cartone animato col suo Gas Gas. Esatto, mi sembri Gas Gas. Comunque, vabbè. A parte queste nostre interpretazioni particolari, ecco, il disco che vi vogliamo presentare oggi ha molte sonorità sudamericane, mischiate però anche al cantautorato italiano. Sì, perché l'artista che vi presentiamo non è sudamericano, ma è pugliese. Ok, però vabbè, sempre esotico. Sempre sud. Sempre sud. Allora, il disco si chiama Gran Riserva ed è definito il disco di esordio di Diego Rivera. Però a noi non ci suonava molto bene questa cosa e siamo andati a approfondire la questione. Infatti Diego Rivera non si chiama così davvero, ma è lo pseudonimo di un cantautore che si chiama Carmine Tundo e che sicuramente avete sentito perché ha preso parte negli anni a tantissimi progetti musicali. Sì, soprattutto il più noto è la Municipal. Però oggi appunto ci focalizziamo allora su Diego Rivera e su questo disco d'esordio che è stato anticipato da due singoli. Ne abbiamo appena sentito uno, Santa Maria al Bagno, che è stato uno dei due assieme a Malvasia Nera che ha appunto introdotto, diciamo, questo nuovo album nel mondo musicale. Ha queste sonorità un po', a me ricordava un po' Tonino Carotone. Molto Tonino Carotone, un pochino anche Manu Chao, magari un po' più slow motion. Sì, allora anche Buena Vista così. E anche però comunque tutta la scuola classica cantautorale italiana, soprattutto del sud, possiamo dire, Calabria, Puglia, Basilicata e tutti quei bei posti lì. Quei posti lì in generale. Sì, laggiù in fondo, noi siamo un po' più su, siamo a Bologna. Quest'album in realtà è uscito nel 2020, infatti fa parte di uno dei progetti di Carmine Tundo che hanno preso vita nel 2020 ed è uscito appunto il 18 dicembre. Ma prima di parlarvi del disco, io vi farei ascoltare il secondo singolo che ha anticipato l'uscita e si chiama Malvasia Nera. Stanza vuota qui a Sirgole, ha le lenzuola in disordine, ed il soffitto mi sembra già un nuovo insolito carcere. La baia fuma salsedine, la notte trasso da glicine, ed io ti cerco in ogni bicchiere, fondo di un altro calice. Mi manchi come mi manca il vino quando si rompe il bicchiere e non mi sei più vicino, perché mi manchi come mi manca il fiato. E quando te ne vai, sai di un rosso scuro, sul mio cuscino c'è un vortice, sa di tabacco e di venere, tra le tue gambe c'è un polline, mi rende sempre più vergine, la baia fuma senza di me. La notte trascio da glicine ed io ti cerco in ogni bicchiere, nel fondo di un altro calice. Mi manchi come mi manca il vino quando si rompe il bicchiere, i mille cocci di vetro. Perché parliamo a questo punto di questo disco, il disco Gran Riserva, che ricordiamo è il disco di esordio di Diego Rivera, ma non fatevi ingannare, perché Diego Rivera in realtà dietro a questo personaggio si nasconde Carmine Tundo, e che però è appunto il primo disco con questo nome, legato peraltro a un altro progetto musicale di cui vi racconteremo tra poco. Il disco viene descritto come un ponte tra il Salento e il Sud America. Nel Salento sono ambientate la maggior parte delle storie narrate in quest'album, ma c'è anche un legame con alcune vecchie pellicole cinematografiche western, dice lui. Beh, si sente, si dove sente. Ci sono cori, riverberi che fanno da tappeto alla chitarra classica e alle percussioni, che sono le protagoniste un po' di tutto l'album. Ma infatti io mi immaginavo, non so, sabbiosità, poi quelle palle di rovi che passano un po' in mezzo. In Puglia è pieno di palle di rovi che girano. No, però effettivamente sì, dà sabbiosità. Un po' l'idea quella di i muretti a secco, degli ulivi anche. Sì, il tramonto in una posta. Il tramonto un po' infuocato brullo. Con Clint Eastwood che lo guarda da lontano col sigaro. E le robe lì. Ci sta. Comunque, ci spiega Diego Rivera che alcuni brani sono nati prima come poesie, ad esempio Calendule o Sarà come morir, che sono due brani che appunto sono contenuti in Gran Riserva, che poi per esperimento, giusto per provare, sono state musicate. Queste poesie però in realtà, lui dice, sono nate come poesie, sono diventate canzoni, ma in realtà torneranno poesie in qualche modo, perché verranno inserite in futuro in una raccolta di scritti che appunto verranno prodotti da questo artista. Questo album comunque io me lo immagino come come fruizione, un album da ascoltare, non so, seduti su una poltrona con un vino da meditazione, che ho scoperto che c'è questo un tipo bicchiere di whisky. Ah, dici? Forse il whisky, o il rum. Non so, perché un cubetto di ghiaccio, però, che alleggerisce un po'. Ah, certo, io non so, non sono una gran consumatrice né di whisky né di rum, però. Però no, io ho scoperto da poco questa cosa del vino da meditazione e mi intrippava abbastanza. Comunque, l'album di Diego Rivera, appunto, che si chiama Gran Riserva, ha un ascolto che deve essere lento, tranquillo, un po' nella penombra magari, con qualcosa da bere, poi decidete voi che cosa. E infatti lui ci dà le indicazioni però per fruire il disco e ci dice: quest'album è un album da gustare con lentezza, magari ha un rosso scuro, vedi che c'avevo ragione sul vino. Nella penombra di una stanza illuminata da una candela e dalla punta di un sigaro ritrovato in un vecchio cassetto. Io il sigaro ce l'ho, che me l'hanno portato da Cuba. Ce l'hai in un vecchio cassetto, immagino. Beh, sicuramente. Comunque, adesso vi facciamo ascoltare una delle due poesie che sono state poi musicate e vi presentiamo Calendule. Questo progetto. Allora, Diego Rivera, dicevamo, è uno dei tanti progetti di Carmine Tundo, però in questo particolare ha deciso di creare un legame tra il cantautorato ispirato alle radici della propria terra, quindi della Puglia, e dei suoni mediterranei con anche influenze del Sud America. E dicevamo, appunto, questo si sente tanto. Ecco, lui dice: ogni canzone racconta un po' uno spaccato del Salento e della Puglia, raccontato in una vena un po' romantica e ironica, racconta questa bellissima terra che porta con sé anche enormi contrasti e contraddizioni. Beh, come succede spesso comunque in tanti posti. Ogni brano è un po' una piccola cartolina proveniente dal passato, che profuma di piccoli borghi e di scogliere, di un entroterra selvaggio e di un mare cristallino. Bella questa descrizione un po' metaforica del Salento. Ma non solo, adesso c'è la parte che interessa a me, che sono gossipara. Storie d'amore e di passione che si susseguono in un vortice di emozioni legate ad un sound classico che attinge alla musica latina, al tango e alla musica popolare pugliese, che sono una gran gossipara. Quest'idea di, non so, queste storie d'amore che si sviluppano con, non so, mi fa un po' telenovela sudamericana. Si sviluppano e si avviluppano, le telenovela sudamericane, insomma, sono quelle robe un po' strambe, Dici? Comunque, il nome Diego Rivera da dove arriva? Diego Rivera è, presumiamo, anche se non viene esplicitato, è il nome dell'artista, del pittore, che è stato anche marito di Frida Kahlo. Carmine Tundo ci dice che sta scrivendo un romanzo, cioè lui, oltre a fare una marea di progetti musicali, sta anche scrivendo un romanzo di cui Diego Rivera sarà uno dei personaggi, è il nome di uno dei personaggi di questo romanzo. E lui dice: quando finirò la trilogia degli album, perché ne vuole fare tre a nome Diego Rivera, poi uscirà anche il romanzo e sarà tutto collegato. Intrigante. Già. Quest'album contiene 11 brani, ricordiamo che è uscito il 18 dicembre, vi abbiamo già fatto ascoltare i singoli che hanno anticipato l'uscita dell'album, una delle poesie musicate, e adesso continuiamo con la seconda traccia di Gran Riserva. È un brano che si intitola Nei peggiori bar della provincia. Appena l'ho ascoltato, a me mi ha dato proprio quell'impressione di bar un po' sdozzo, come si dice qua a Bologna, in cui bersi. Parliamo solo di bere in quest'album. Comunque, dice: è un racconto romanzato della vita di alcuni bar della provincia italiana, dove il tempo sembra essersi fermato e dove emergono i peggiori e i migliori istinti di personaggi comuni, che si trasformano in figuranti di un presepe immaginario, tenuto insieme dall'alcol e dalle mille storie da raccontare. A me ricorda immediatamente un bar del mio paesino, perché io vengo da un paese piccolino e appunto mi ricorda quello. Nei peggiori bar della provincia. Peggiori bar della provincia, ci raccontiamo tutte le sere. Nei peggiori bar della provincia, l'amore arriva con le calze a rete. Nei peggiori bar della provincia, un buon amico il tuo spacciatore. Nei peggiori bar della provincia, ti do fiducia se mi offri da bere. Nei peggiori bar della provincia, siamo dei gran falliti a tutte le ore. Nei peggiori bar della provincia, ci nascondiamo dalle bufere. Nei peggiori bar della provincia, tutte le bestemmie si trasformano in preghiere. Nei peggiori bar della provincia, è un poeta nel cuore. Nei peggiori bar della provincia, a volte arrivano anche le pistole. Nei peggiori bar della provincia, la notte tardi diventiamo un presepe. E portiamo i doni sull'altare del rum. Noi re magi, portiamo i doni al nostro Gesù, il nostro Cristo ha la faccia da delinquente, almeno 5 anni di galera sulle spalle. Nei peggiori bar della provincia, ci proteggiamo per aver perso la fede. Nei peggiori bar della provincia, il tuo governo è un nemico in comune. migliori bar della provincia, la notte tardi diventiamo un presepe. E portiamo i tuoni sull'altare. Usciamo dunque dai migliori bar, i peggiori bar della provincia, ma anche dai migliori, che poi no, dipende dai punti di vista, per raccontarvi un qualcosina in più sulla vita di Diego Rivera, che è poi Carmine Tundo. E quindi raccontiamo Carmine Tundo, perché Diego Rivera magari c'ha tutta la sua vita parallela, giusto, che noi non conosciamo. Allora, Carmine Tundo, appunto dicevamo, è pugliese, è nato a Galatina, che è in provincia di Lecce, e fin da piccolo ha iniziato a scrivere delle canzoni. Poi cosa succede? Nell'adolescenza, un po' come tutti gli adolescenti, crea un come può succedere spesso, diciamo, incontra degli altri amici che hanno voglia di suonare e crea un gruppo. Allora, era un gruppo ska punk. I Crusca, con la K, ovviamente. E con questa band, appunto, poi si aggiudica, diciamo, un debutto nel circuito alternativo. Nel 2009 è uno dei vincitori di Sanremo Lab ed esordisce al Festival di Sanremo nel 2010 sotto lo pseudonimo di Romeus, il primo pseudonimo che usa Carmine Tundo per raccontarsi in giro. Si presenta poi a Sanremo con un brano che verrà inserito all'interno di Romeus, che è l'album di esordio del progetto Romeus. Però vabbè, andiamo già oltre, perché cambiamo nuovamente il, diciamo, l'identità di Carmine Tundo. Nel 2011 vince la 22esima edizione di Musicultura, che è questo festival molto importante del cantautorato italiano, col brano Caviglie Stanche. Passano 3 anni e Carmine entra nella band di Sofia Brunetta come corista e batterista, che in realtà lo porta in giro per un tour italiano ed europeo, quindi inizia a uscire dai confini nazionali, diciamo. L'anno dopo cambiamo nuovamente genere musicale, infatti Carmine Tundo crea un progetto che si chiama Nushu, che è un progetto noise rock, cambiamo proprio completamente genere, e lo crea assieme a un bassista che si chiama Giuseppe Calabrese. Vengono, diciamo, invitati sui palchi di diversi festival del circuito alternativo italiano, ma poi nel 2018 decide di intraprendere una carriera solista e pubblica 2 album, Notturne Larvae volume 1 e volume 2, sotto il nome di Carmine Tundo. Peraltro, se voi andate su www.festivalsbackpack.it trovate anche la presentazione, un'intervista che avevamo fatto a Carmine Tundo per l'uscita di Notturne Larvae. Ma nel mentre, durante tutto questo periodo in cui fa tutte queste cose, crea anche il progetto La Municipal nel 2013, che esiste tuttora. Ne avrete sentito parlare, perché effettivamente la Municipal dal 2013 a oggi ha pubblicato 3 diversi album ed effettivamente è riuscita a farsi riconoscere in un qualche modo, diventando una band molto famosa nel panorama italiano. E arriviamo dunque a questo 2020 in cui Carmine Tundo, con lo pseudonimo di Diego Rivera, pubblica il primo di quella che poi sarà una trilogia di album di Diego Rivera, appunto. Il primo si chiama Gran Riserva ed è quello che vi stiamo presentando oggi. Gran Riserva è uscito il 18 dicembre 2020, come vi dicevamo, vi abbiamo fatto ascoltare un pochino dei suoi pezzi. Vi invitiamo comunque ad ascoltarlo acquistando l'album, se volete. Adesso ve ne facciamo ascoltare un altro pezzettino e scegliamo la traccia numero 7 su 11 e si chiama Il negozio di scarpe. Con questa traccia noi allora vi auguriamo una buonissima settimana, vi auguriamo di viaggiare in Sud America grazie al nostro disco della settimana e buona settimana. Marina aveva un cuore ferito per quegli anni di merda sopportati al liceo. Marina era cresciuta perfetta, forse troppo di fretta nel cuore dell'arneo. E aveva la lingua più dolce di tutti i parcheggi di Padova Est. Marina con le sue calze a rete pescherebbe anche te. discendente Leon. Si faceva chiamare Michel, amava i Beatles e gli ascoltava sempre il roulotte. Marina dalle mani di seta sognava l'amore, poi l'amore arrivò. Aveva gli occhi di un falco e il corpo di un orso del nord. Marina, quanto ami davvero, sei la stella più bella di quella stronza di tua sorella che ora vive in Brianza. Marina, se avessimo i soldi io te scapperemmo verso i mari del sud e apriremmo un negozio di scarpe dal 40 all'insù. Marina sognava la moda, tutte le passerelle di Parigi e New York. Viveva tutto il giorno su Asos aspettando le offerte sulle taglie miglior. Marina sognava la moda e poi la moda un giorno in qualche modo arrivò. Una pelliccia rubata in una villa sulle rive del Po. Marina, quando ami davvero sei la stella più bella di quella stronza di tua sorella che ora vive in me.